Nello specifico, le banche dovranno automaticamente riconoscere come inadempiente il cliente che presenta un arretrato di oltre 90 giorni. Questo nasce da due direttive del 2013 e del 2017, quindi in fase pre-pandemica, e in generale si verificherà una situazione dove il default avrà corso quando l'inadempienza sarà superiore ai 100 euro e all'1% del totale dell'esposizione verso il gruppo bancario, e questo sia per le piccole e medie imprese che per i privati. Per le imprese invece l'importo non versato dovrà essere superiore ai 500 euro e all'1% del totale delle esposizioni verso il gruppo, quindi sono cifre modeste, ma visto il periodo pandemico di questo 2020 è chiaro che in una situazione totalmente cambiata destano allarme, e per questo che ho posto un question time, un'interrogazione alla giunta, e mi ha risposto l'assessore regionale Colla in base a queste nostre preoccupazioni. Con queste nuove soglie la possibilità di diventare un cattivo pagatore quindi si alza? È chiaro che è sempre opportuno non trascurare le scadenze, ma visto gli importi anche di piccola entità e visto il tema di questo tipo di nuovo di classificazione del default, è chiaro che si velocizza e si rende più concreto una segnalazione al centrale dei rischi di Banca d'Italia, molto chiaramente speriamo che non si verifichi se non si cambiano le regole, però è chiaro che dopo ne determina chiaramente tutte le conseguenze, tanto che questa situazione grave, inedita, che ha determinato la crisi chiaramente determinata dalla pandemia sanitaria del Covid, preoccupa lo stesso sistema bancario, tanto che il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, ha più volte lanciato appelli al governo nazionale perché si facesse promotore di una correzione a livello europeo di questo tipo di disciplina. Cioè si irrigidisce il rapporto tra istituto di credito e privato, piccola media impresa o impresa. E le chiedo, anche secondo le sue proposte, insomma quelli che erano i dubbi da lei esposti, che tipo di misure si possono mettere in campo per cercare di cambiare questa situazione o perlomeno di ammorbidire queste nuove misure? Sicuramente in questa fase dove quest'anno si è parlato più volte giustamente di facilitare la liquidità alle imprese, di facilitare il credito alle imprese, ai cittadini, ai privati, eccetera, eccetera, un irrigidimento del sistema procedurale a cui le banche vengono chiaramente, devono seguire tali dispositivi, non crea quella flessibilità necessaria, in particolare, mia opinione, che può essere basata sulla mia personale esperienza, sia politica sia in altri campi, dove il rapporto tra piccole e medie imprese, in particolare molto diffuse sul territorio, hanno rapporti molto stretti con il sistema bancario localizzato, sia che siano banche locali, sia che siano banche nazionali, poco importa, però c'è un rapporto chiaramente relazionale molto stretto. Questo crea, o si teme che possa creare un effetto di stress per le piccole realtà, le piccole imprese, quindi una maggiore flessibilità e maggiore discrezionalità in alcuni casi, in un momento dove, non so, una fattura non viene pagata, un fornitore chiede una dilazione, cioè il rapporto e l'effetto domino può verificarsi. La Regione Emilia-Romagna ha affrontato questo tema a livello formale e istituzionale in assemblea, l'assessore alle attività produttive ha formalizzato al ministro Gualtieri una lettera per proporre di alzare le soglie economiche, di allungare i tempi delle moratorie per esempio, e di fare chiaramente un'operazione in Europa, perché noi non ci dobbiamo dimenticare, pure non dobbiamo trattare l'Europa come una controparte, ma noi siamo parte di questo sistema, anche del sistema finanziario e della Banca Centrale Europea. Ricordo che siamo il terzo paese dopo Germania e Francia come detenzione del capitale della Banca Centrale Europea, di farci promotore di un'operazione di dilazione, ma può essere anche un'operazione ponte per far sì che questo provvedimento o sia cambiato oppure sia definito anche in maniera straordinaria, vista la situazione che si è creata, perché chiaramente era stato definito per omogeneizzare tutti i sistemi bancari europei in fase pre-pandemia. Un argomento chiaramente che ha dei tecnicismi, ma sicuramente veramente tocca il quotidiano di tutte le persone, cioè o di tante persone, perché il mutuo della casa, il mutuo di una rata, in una fase così può essere ostativo per futuri anche di persone. Ognuno ha una reazione di fronte a questa situazione, chiaramente con le risorse che ha e che dispone, quindi il sistema creditizio, il sistema finanziario è fondamentale per reggere e sostenere un'economia. Non esiste un'economia o comunque una produzione senza un sistema finanziario e creditizio che ti accompagna.